È veramente una lotta impari quella contro lo spam di lunedì. È veramente una lotta impari, Spadino. Loro hanno avuto tutto il weekend, io non ho aperto la posta, quindi il lunedì è veramente una battaglia a denti stretti tra l'Ariele e lo spam. Ciao mister Trombetta, finalmente una faccia amica in questo lunedì 17 di marzo 2008, l'anno della svolta. Non che la faccia di Spadino non mi sia amica, ma preferisco quella di mister Trombetta. Così per fatti personali tra me e mister T. Gli affai? Pane, burro e rock and roll. Ogni affai. Così. La tua colazione roll. Pane, burro e rock and roll 205. Pane, burro e rock and roll. È il numero progressivo della puntata di oggi. E che puntata, ragazzi, da leccarsi i baffi. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ciao Davide, sei il primo di quelli che scrivono via sms. In realtà c'erano degli altri messaggi, ma quelli erano veramente troppo anticipati. Buona giornata a tutti voi. Iniziamo una nuova avventura, non solo essendo lunedì, sia per questa giornata, ma per quel che riguarda tutta la settimana. Qui c'è l'Ariele Spadino, tra poco arriveranno anche Roberto Fricantoni e Isaac Rizzi, lo squadrone. Vi permette di affrontare al meglio la mattina, insomma. Fino alle 9 in rigorosa diretta con tanta ottima musica e parecchie stupidate. Siamo pieni anche quest'oggi, abbiamo un sacco e una sporta. Come d'altra parte della buona musica, no? Iniziamo con 38 Special. Ma così, buona. 6 minuti alle 7 di quest'oggi, lunedì 17 ovviamente. Conosco il mio pollo, Frick sarà in fibrillazione, essendo il 17, e lo scopriremo d'altra parte tra qualche minuto, come ogni giorno, l'inizio affidato all'almanacco del giorno che fu, per scoprire cosa è accaduto il 17 nel corso della storia, e come di consueto invece l'inizio in solitaria con il trittico Ariele Spadino Trombetta. Trittico che si allarga solitamente segnalando i contatti, già belli gonfi stamattina, è un piacere sentirvi via mail piuttosto che via sms, è come un piacere sentirvi telefonicamente. Pane, burro e rock and roll sta sul pezzo dei vostri problemi. 335-100-7777, i problemi oggi ce li ho io, ma quello è un altro par di maniche. E le veripia! È una casella di posta elettronica che risponde all'indirizzo ariel@radiorockfm.com. Più semplice di così. Ricordo che è scaduto il tempo per scaricare gratuitamente, allegretto ma non troppo, il brano musicale di Roberto Fricantoni che vi abbiamo regalato nel corso di settimana scorsa. Vi do una dritta, visto che ovviamente il nostro spazio lo aggiorniamo con calma nel corso della giornata, c'è ancora qualche ora per poterla scaricare, la toglieremo sostituendo gli interventi del weekend con quelli di oggi, quindi state andando al lavoro, segnaletevelo, devo scaricarmi, legaretto ma non troppo sullo spazio di Pane, Burro e Rock and Roll, se no me la tolgono. myspace.com/paneburrofm, se la volete, se interessa, poi se no proseguiamo con Jerry e Rafferty, no? Bella Jerry. Una nuova dura settimana da affrontare assieme. Buona giornata. Buona maestro giornata, Antonio. Dottor Ariel. È pronto a questa nuova avventura? Naturalmente no, non sono mai pronto, però mi butto. Gentilmente, se potesse alzare le mani anziché tenerle sotto la scrivania, è meno inquietante la cosa. L'ha notato, no? Sì. È che ho le unghie sporche. No. Sporche, no. Devo lei metterlo. Si sta reggendo gli zebedei perché è un 17 di marzo. Ah, ancora con questa storia. La smetta di strizzarsi le balle e occupiamoci dell'almanacco di quest'oggi. No, assolutamente. Voglio affrontare la questione della cabala. Porterà fortuna il 17 o il 13? Ma che ce frega? Ma che ce importa? Lei sta col 13 o col 17? E voi là fuori? Amici, amiche che ci ascoltate, state col 13 o col 17? Lei più passa il tempo più è messo male. 17 marzo del 1753. La smetta di sostenermi. A New York per la prima volta viene celebrata la festa di San Patrizio, patrono d'Irlanda. Ah, che patrono San Patrizio. Fiumi di birra. Esatto, fiumi d'allegria. Tutti vestiti di verde. Lei ha mai conosciuto un irlandese? No, personalmente no. Sa neanch'io, io però ho un cugino con i capelli rossi, vale? No, no, non credo. Non vale. 17 di marzo del 1931, lo stato del Nevada legalizza il gioco d'azzardo. Ah, sì. Lei tra i vari vizi che ha nella sua vita ha quello del gioco dell'azzardo? Guardi, non me lo posso permettere perché... Ne ha altri sono... più costosi. Sì, ne ho altri più costosi, primo. Seconda cosa, devo dire di essere molto distratto e quindi poco portato per il gioco. Meglio, appunto. Meglio, faccio casino, confusione, quindi è inutile, devo rinunciare a priori. Andiamo a festeggiare un altro compleanno quest'oggi di una categoria che lei apprezzerà perché nel 1948 a San Bernardino in California nasce il gruppo di motociclisti denominato Hells Angels. Ah, gli angeli infernali, sì. Che sono a volte un po' criminali sul serio, insomma. Io li preferivo più autoironici, devo dire la verità. Però questi ci vanno giù pesanti. A volte sì. E lei ricorderà... Vicende alterne legate agli Hells Angels. Ricorderà il famoso film dei Rolling Stones dove gli Hells Angels dovevano essere gli incaricati... Esatto, della sicurezza e insomma c'è scappato il morto. Mannaggia, va bene. Intanto noi salutiamo i bikers, sempre i benvenuti come gruppo d'ascolto a Pane, Burro, Rock and Roll, e chiudiamo con una notizia medica datata 17 marzo 1999. 1999. Un'equipa di medici conclude uno studio in base al quale si sostiene che la marijuana ha effetti benefici nei malati di cancro e di AIDS. Maestro, non scherziamo. Cosa sta spipacchiando, signor Antonio? Ah, beh, sa, non gliel'ho detto, non ho avuto occasione, Ariel. Di dirle che ho un tumorello. No, maestro. Vagante. Va bene, cinici, ma fino a un pezzo. E posi il cannone. Va bene. Qui può andare. Vorremmo fare un ringraziamento speciale anche a Frigo e Rogna che permettono che questi studi vadano a buon fine e arrivino fino a noi. Allora, gentilmente, se il signor Antoni la smette di fumarsi le canne in diretta e Isacco Rizzi non parla perché non puoi parlare, la trasmissione la proseguiamo. Maledetti umani! Se non faccio complimenti, vedo che la osservava, se vuole, prego, vuoi fare un tiro? Un tirello? Le passo lo spinaccio, come dite voi giovani, eh. chase the wind, that's all the city life requires. And the days of vanity went on forever. And he saw his days burn up like paper and fire. Across his green field, and his generation says it from far. But we keep no check on our appetites. So the green fields turn to brown like paper and fire. Paper and fire, bringing up the ashtray. Paper and fire, blowing out. A proposito di spinaci, Paper and Fire, Gian Mellencamp. La colazione di PBR, pane, burro e rock and roll, in rigorosa diretta fino alle 9 di quest'oggi. Appello alle frequenze accese, ci siamo tutti ragazzi? Perché mi viene il dubbietto. Via sms 335 100 7777. State sentendo in tutte le città? Milano sicuro. Ho il dubbio sulla Versilia. Ci siete amici della Versilia? È sempre così poi. Se tanto non ci sono, come fanno a saperlo? Ma possiamo andare a esclusione, Spadino. Se gli altri dicono che ci sono e loro no, scopriamo che loro non ci sono. I dubbi che vengono al mattino. A pane, burro e rock and roll. Segnalazione per quanto riguarda il... La premiata rubrica Le traduzioni cantate, dette anche cosa volevano dirci, visto che c'è questa sorta di disparità tra voi della prima ora e quelli della seconda, per cui quelli della seconda solitamente se la beccano la prima volta, la canzone poi voi vi beccate la replica, però quelli della prima, della seconda ora sono già avanti di un'altra canzone, quindi dobbiamo marciare dritto questo lunedì nel prossimo blocco, quasi sicuramente infileremo... Cos'era? Knocking on the door? Esatto, quindi bussando alle porte del paradiso. È una versione che ci era venuta anche particolarmente bene, con la chitarra, tra l'altro anche il buon Appino degli Zen Circus, quindi si sente anche che è suonata un filo meglio. Perché noi, quando siamo solo noi di pane, burro, rock and roll, poniamo solo molta attenzione alla traduzione filologicamente precisa del testo. Con altri artisti che ci danno una mano, ci sta che anche la musica sta un po' più in piedi. Noi siamo un po' così, la facciamo un po' fricchettona, vero? Sì. Per gli amici in fuorisincro questa ci sta bene. Because the night, Patti Smith. Io mi metto a parlare in fuorisincro adesso. Me now, baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. allarme rientrato. Spostiamoci, sono le lucette dell'allarme. Dalla modalità gialla torniamo alla verde. Abbandonata la modalità crisis di Pane, Burro e Rock and Roll. Frequenze tutte accese, no, a volte viene il dubbio, sai, che siamo una frequenza radiofonica meteoropatica, come cioè, molte radio hanno gli speaker o i registi meteoropatici. Noi a Rock FM a volte abbiamo anche le antenne meteoropatiche. Ieri pomeriggio, per raccontarvi i fattacci miei, a Gallarate grandinava, ma anche tipo roba grossa, cioè roba grossa, almeno così. Voi non vedete il gesto, ma potete immaginarlo. Quindi può capitare che qualche antennina si perda. Invece ci siamo tutti, ok? Ciao, l'appello fatto. Belli precisi per affrontare la 205. Quando ti svegli la mattina ti devi ricordarti di ascoltare Rock FM. Non ne puoi fare meno. È un programma scemo, fatto apposta per te. Ecco lì l'Ariele, lancia per cantoni, risate a volontà. Inizia alle 7, finisce alle 9. R, Patte, Burro e Rock and Roll. Io non pensavo che accadesse più trovar qualcosa meglio del rock. Cosa la bottiglia, amico rockero, infangi la categoria. Ma sono tutti sbronzi? No, no, no, no. Beh, pensavo zi Osborne. Ascolterai, vedrai la vita, sorriderai. Sì, va bene, smetterò di bere, ascolto Pane, Burro e Rock and Roll. Smetti da subito. Ultimo. No, no, no, no. Vabbè. E ci ringrazierai. Quando ti svegli la mattina ti devi ricordarti di ascoltare Rock and Roll. Ok. Pane, Burro e Rock and Roll. Ci dico. Accendi in fretta la tua radio alle 7 del mattino, non ti dimenticare. Pane, burro e rock and roll. E su Rock FM.